comunque sta preppando anche qua i tuoi premi. Sono sicuro che anche la sera mi ci stava, perché io non lo faccio mai sulle cose degli altri. Ma stasera mi ci stava scappando per sentire qualche dubbio, caso è troppo aperto stasera vicino. Allora, a me mi sia la ruisa, mi sia. Si brucia parecchio. sento più nemmeno io, dice, non ti sento più se mi stai ascoltando, eh. Antonica! Non si sente perché anche c'è la portante, c'è, cioè, è per quello che non si sente. E se non fa, va paura, va. Mi sai cos'è, Antonio? Mi dà un po' di tipo una benedina, e poi ora sì, che in un attimo ti si sciolga, Kappa, manda questa modulazione, Gianni. Vabbè. Ho preso l'apparecchio vecchio, l'ho attaccato. Mi ha fatto spaventare poco fa, l'ho visto vicino. E infatti, ribelliamo di questo vizio, ma questo già va bene lo stesso, dai. E questo qua? Airbex. Già va bene. Quanto oggi ho fatto una prova, c'erano Gian Maria e cosa, come si chiama, Graziano. Mi sono messo nel canale a fianco, loro erano, per dire, sono prima erano sul 5, io mi sono messo sul 6, poi sono passato al 17. E sono passato sotto casa di Gian Maria, non si disvia nulla, manco il canale a fianco. Troppo bello, confronti all'altro, l'altro è proprio un casino, non si comprende più nulla. Scappa, ma è così, ma si intende, è così, anche quello mio, non mi disturba, se metto un apparecchio, sì. Eia, perià. Giuseppe, avanti. Lampo. E fare del mio. Ah, ma mi sono portato tempo, lui voglio vedere se tu ne monti a tre. Anche tu non ce l'hai, quell'apparecchio là che ci avevi quel giorno, quella notte famosa. Beh, però non possiamo accendere quello, tanto ce l'ho ancora su quel canale. Che fa, che ne dici? Accendere l'altra. Quello che avevamo quella notte famosa. No, non ce l'ha. Quello che aveva in mano, che cos'è che era? Il tuo? Ho capito. Se noi saremmo andati lì, quello lì si sente a te. Ma adesso dove c'è tu? La finestra? E mi arrivi molto meglio di Giuseppe. Giuseppe, tu al massimo della potenza, sì. Prova al massimo, vedi come ti senti. Mi sento bene lo stesso. Batti. Adesso bene, Giuseppe. Adesso ti sento bene. Tu attacca l'alimentatore, sai. Tu, non ne fai proprio il portante? Non ce l'ho. Io già ce l'ho. Io ce l'ho il portante. E io lo uso, non lo sto usando più. Ma fa attaccarlo. Ma che volta. Dai, c'era un pochettino di tempo prima questa radio, ha attaccato questa. Saviatore. Cava. Veglia, Giuseppe. Giuseppe? E al palo ti ricordi con 4 watt, Giuseppe? Niente, Giuseppe. No, ha detto di attaccare l'antenna grande a quello lì. Tutto male che va di bruci 135 euro. più spesso di spedizione. Per fare alla notte, dalle 1 alla notte, qua si sta arrivando nemmeno Santiago 1, la radio è 1 proprio scarsina, prima era 5 la radio proprio bella forte, il segnale 9.15. E va male il microfono esterno, si può attaccare. Se non hai mai provato a attaccarlo, vedo bene, c'è tipo il DM. E lo sai cosa? Che lui ha preso il processore, essendo un apparecchio già spinto, magari ti fischia. Attacchi con le provatorie, hai visto? Attacchi all'alimentazione, Quello è vero che la batteria a 4 watt le risucchia, anche perché poi 5-4 watt ma non lo sono. Infatti. C'è un po' di più. Lo va per l'alimentazione. Anche secondo te non è un watt quello che è un watt, ecco. Quanto è un watt? A Bombolo, Giuseppe e tutti gli altri amici, dai, ciao ciao. Ciao ciao, buonanotte Gianni, dai, ci risentiamo, gappa. Sono fatto rullare stasera un po' questo, dai, ciao ciao.